Benvenuti, sono le 15.01, Radio Onda Rossa, questa è la radio che state ascoltando, 87.9 e Tracce di Cinema, come ogni giovedì sta iniziando. Federico, sembrerebbe oggi che stiamo raschiando il fondo del barile, invece perché? No. Ma che dici? Non è mai così. No, beh, è un film che non ha avuto neanche la fortuna di uscire nelle sale cinematografiche italiane. Sì, io non l'ho visto, però che ma ci interessa. È uscito solo in DVD e nel 2010, ma è un film invece, secondo me, io l'ho visto, mi sono comprata il DVD, poi te lo passo. Ok. È invece, secondo me, un film fico, coraggioso, pessimista, un film di fantascienza, anche un po' estremo, discreto, secondo me, con una bellissima colonna sonora, che è ciò che mi interessa forse di più, un cast ottimo, Jude Law e adesso mi sfugge il nome di Forest Whitaker, insomma, per ricordare chi è: Platoon, Bird, Ghost Dog, tanto per dirne alcuni dei film a cui ha partecipato come attore. Come ti dicevo, sembra che raschiamo il fondo del barile, ma invece no, perché invece è un film piuttosto interessante, uscito nel 2010, diretto da un esordiente, Miguel Sapochnik. Mi manca molto oggi la presenza di un critico. Mi sarebbe piaciuto. Peccato. Perché sarebbe stato bello fare un'analisi un po' approfondita su questo film, non solo sul film in sé, ma anche sulla questione di cui tratta. È un film basato sul romanzo The Repossession Mambo di Eric Garcia, scrittore americano, autore di numerosi romanzi, alcuni dei quali pubblicati anche in Italia, Anonymous Rex e La Carogna, da cui Ridley Scott ha tratto un film, Il Genio della Truffa, con Nicolas Cage. Poi vi raccontiamo anche un po' perché stavo dicendo che, insomma, è un film interessante non soltanto dal punto di vista cinematografico, ma anche perché per le sue tematiche. Ma ve lo raccontiamo dopo questa traccia. And I stand inside today at the edge of the future, and my dreams all fade away. I have burned my tomorrows, and I stand inside today at the edge of the future, and my dreams all fade away. Uncle con Burn My Shadow. Lo sai che il timbro e lo stile della voce mi ha ricordato molto Ian Asbury dei Cult. Sì, sì, ma infatti c'è qualcosa, Fede, non ti sei sbagliato. Dietro questo acronimo Uncle si cela un collettivo sperimentale di producer hip hop che hanno come base Londra e che ha enormemente influenzato la musica elettronica degli anni 90. E hanno pubblicato pochissimo materiale, insomma, rispetto al grande successo che hanno avuto. La loro formazione, che è cambiata nel tempo, è nata con i due, insomma, creatori di questo collettivo, sono stati DJ Shadow e James Lavelle, e come dicevo dal 1994 però è cambiata, ne hanno fatto parte Tim Goldsworthy e il producer giapponese Kudo, e hanno collaborato tantissimo con molti artisti importanti. Il loro album capolavoro è Psy Science Fiction, considerato appunto il capolavoro tra i loro lavori del 1998, scusate, e di questa traccia che abbiamo ascoltato, che fa parte del loro album del 2007 War Stories, hai fatto bene a dire che c'è lo zampino dei Cult. Infatti tra gli ospiti che loro spesso hanno all'interno dei loro album c'è Ian Asbury, appunto, dei Cult, e Josh Homme dei Cozza. When marimba rhythms start to play, dance with me, make me sway. Like the lazy ocean hugs the shore, hold me close, sway me more. Like a flower bending in the breeze, bend with me, sway with thee. When we dance, you have a way with me. Stay with me, sway with me. Other dancers may be on the floor, dear, but my eyes will see only you. Only you have that magic technique. When we sway, I grow weak. I can hear the sound of violins long before it begins. Make me thrill as only you know how. Sway me smooth, sway me now. ¿Quién será el que me quiera a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será el que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? I can hear the sound of violins long before it begins. Make me thrill as only you know how. Sway me smooth, sway me now. Sway me smooth, sway me now. Questa versione di Sway vede la voce di Rosemary Clooney e la band di Perez Prado. Avevo ragione quindi su Ian Asbury, eh? Sì, la voce sì, era proprio la sua. La no? voce era un featuring proprio del cantante del questo glorioso gruppo inglese dei Cult. Ma invece mi era sfuggito anche di dire che consiglio agli ascoltatori di guardarsi il videoclip, che è fichissimo, diretto dallo stesso regista del nostro film, e è interpretato da Gora Visnjic, ed è la storia di un uomo che scappa perché ha un cuore esplosivo. È fighissimo, è veramente, cuore esplosivo. veramente è un trip il video. Invece di questo brano, che dire, è un brano musicale, la versione inglese di Quien Será, pezzo di genere mambo beat del 1953, scritto dal messicano Pablo Beltrán Ruiz, e il testo in inglese fu scritto da Norman Gimbel nel febbraio 1954. Questa versione fu incisa da Dean Martin ed ebbe da quel momento in poi un grandissimo successo, e fu registrato e reinterpretato da moltissimi artisti. Rosemary Clooney, come vi viene insomma dal cognome, vi ricorda che è la zia dell'attore George Clooney. Questo non era dato saperlo. Beh, insomma, Clooney, no? Io non sapevo che avesse. Beh, sì, è la zia, famiglia... è stata attrice, cantante, figlio d'arte. Insomma, sì. E però la cosa che mi interessa è che lei l'ha cantata insieme a Perez Prado, che è uno considerato fra i maggiori artisti di musica latinoamericana, americana, ed è ricordato con l'appellativo appunto di re del mambo, e considerato uno degli eredi artistici di Xavier Cugat. All'apice del suo successo e alla guida di quello che in ambito anglosassone è stato definito appunto Mambo Movement, lui è stato il più alto rappresentante. Il mambo è la musica che lo ha reso celebre, che lui ha contribuito a rendere celeberrima, e poi è rinato in tempi successivi sotto forma di salsa e è diventato un po' un simbolo della popolare della musica, un simbolo della musica popolare latina. Ma il nostro Perez Prado, forse qualcuno non sa, che è stato un artista molto amato dai cineasti italiani. Per esempio Fellini, nella Dolce Vita, usa un suo brano celeberrimo, che è Patricia, uno dei suoi più grandi successi. E d'altronde il suo periodo d'oro sono i 50 e 60, che sì, è anche il periodo d'oro del cinema italiano. Sì, però insomma, ecco, è stato amato non solo da Fellini, ma anche il suo brano dal titolo Why Wait è stato usato nella colonna sonora del film di Nanni Moretti Aprile, nella scena in cui Moretti immagina le riprese del musical sul pasticcere trotskista interpretato da Silvio Soldini. E questo è quanto. song they got to meet. Summer sweetness, I wanna be among the number to share the sweetness. Want to hear when the call, oh, and attend to this calling. Yeah, I feel when the summer, The Itals con Jack Calling. Cosa mi dici di loro? Jack Calling, ah, questo è un brano che potrebbe mettere Attica Blues, eh? Sì, sì, gli piacerebbe. Pietro, per la precisione. Sì, sì, sì, Pietrone, grande Pietro, ciao. Che poi ci seguono, Attica Blues, rimanete all'ascolto perché poi inizia la trasmissione reggae e solo della radio. Ma basta fare pubblicità alle altre trasmissioni, giusto, Fede? Beh, questa canzone è bellissima, proprio sono stata felice di metterla nella nostra playlist, mi piace un sacco, fa parte dell'album degli Itals, Give Me Power del 1983, e gli Itals, vabbè, un gruppo storico giamaicano, hanno cambiato spesso la loro formazione, ma insomma sono stati diciamo, hanno fatto parte del grande reggae di questa piccola grande isola. Invece, a proposito del film, sul fatto, Fede, che stavo dicendo all'inizio, aspetta che sto dando fuoco alla radio con la sigaretta. No, no, stavo dicendo all'inizio appunto che la tematica di questo film, no? La dico a pezzetti, vi leggo un po' la trama. L'acquisto di avveniristici organi meccanici nel prossimo futuro è in mano a grandi multinazionali. Ogni persona avrà la possibilità di acquistarli, ma se e quando il pagamento delle rate non verrà rispettato, gli organi, a volte vitali, dovranno essere restituiti alla mega azienda, che in questo caso si chiama Union, e la compagnia sarà pronta a riprendersi anche in maniera poco ortodossa. Questo è quello che succede a Remy, fresco di trapianto al cuore, che dopo essere stato uno dei recuperatori di organi, appunto, che lavorava per questa terribile società, si trova all'improvviso a dover fuggire dai suoi ex colleghi di lavoro. Questa è la trama di questo film di fantascienza che non è uscito in Italia, ma nelle sale cinematografiche italiane, ma è uscito soltanto in DVD, e i protagonisti erano Jude Law e Forest Whitaker, ma questo non è stato abbastanza per interessare i distributori italiani, perché comunque è un film considerato, è stato anche un flop in America. A me è piaciuto, però, ma probabilmente io ho un gusto tutto particolare del cinema, mi piace quello che non piace a tutti, insomma, mi è divertito molto proprio per questa tematica, proprio per questo tema difficile, no? Sulla sanità, no? Fede, neanche troppo avveniristico, nel senso che in America la sanità è privata, sì, lo sappiamo bene, e la gente che non può permettersi un'assicurazione rischia di morire per strada, cioè c'è poco da dire, e quindi insomma non è proprio una questione di forma, è una questione di sostanza questo film. È violentissimo, cioè è quasi splatter per certe cose. Lo sconsiglio ovviamente a chi ha, insomma, è sensibile per le scene di sangue, perché veramente ne usano assecchiate. E mi è piaciuta la tematica, perché insomma è una denuncia verso tutto ciò che è la sanità privata, che spende lacrime e sangue di chi si deve curare e fa finta di fare il bene pubblico, mentre invece il suo interesse primario è un interesse egoistico e privato. In questo caso è tutto chiaramente molto estremo, ma insomma neanche troppo. È un film molto progressista, secondo me, e in cui viene denunciata la mentalità di questo sistema e anche un po' la mentalità, come dire, militaresca del lavoro, no? Per cui il lavoro è lavoro e è più importante quando si occupa di far rispettare le regole. Ecco, su questo concetto io mi permetto di farvi fare una riflessione e dissento completamente dal suo significato, ecco. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, yeah. It's a new dawn, it's a new day. A new life for me. Ooh, ooh, ooh, ooh. And I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. River running free. It's a new day, it's a new life for me, and I'm feeling good. Dragonfly out in the sun, you know what I mean, don't you know? Butterflies all having fun, you know what I mean. Sleep in peace when day is done, that's what I mean. And this old world is a new world and a bold world for me, yeah, yeah. Stars when you shine, you know how I feel. Scent of the pine, it's a new day, it's a new life for me. Feeling good, Nina Simone. Beh, che dire, questo brano composto da Anthony Newley e Leslie Bricusse in occasione del musical del 1965 The Roar of Grease Paint, The Smell of the Crowd, interpretato da Cary Grant, che ha cantato la versione originale della canzone. Oggi tutti i nomi che mi ricordano mia madre, Dean Martin, Cary Grant, mi faceva vedere tutti questi film che non si vedono più alla televisione, Fede? Beh, ci saranno dei canali. Mi piacerebbe rivedere specializzati, qualcuno. Specializzati, no? Non lo so, io non li riesco mai a trovare. Ma io non guardo mai la TV. Io pure, quindi non possiamo dire. Non possiamo dire, no, in effetti no. Beh, comunque un brano bellissimo, è stato ricantato da numerosi artisti, tra cui appunto la nostra Nina Simone, una versione famosissima addirittura dei Muse, dai Traffic, Michael Bublé. vabbè, insomma, Frank Sinatra, che ve lo dica a fare. Beh, la versione di Nina Simone è apparsa sul suo album I Put a Spell on You del 1965, è presente in tantissimi soundtrack di film, da nome in codice Nina, Point of No Return del 1993, The Saboteur del 2009, The Last Holiday del 2006, e parla della contrapposizione tra le classi più agiate e le classi meno agiate in Inghilterra intorno al 1960. Ed è proprio questa, il modo in cui canta, in cui la canta la nostra Nina Simone, in questo ritornello che lei ripete in modo blando, ma insomma abbastanza martellante. Feeling good, I'm just trying to feeling good. È quasi, insomma, ti fa venire i brividi, perché è quasi come a farti sentire che ti devi autoconvincere che si deve cercare per forza di sentirci bene per riuscire poi a andare avanti, a vivere delle giornate particolari, che sono così un po' per tutti sempre, credo. Con Every Day Will Be Like a Holiday. William Bell, e io ho trovato una biografia tutta in inglese, siccome era tardi ieri sera quando mi sono messa la trasmissione, avevo lavorato tutto il giorno, non l'ho tradotta, quindi, e adesso faccio più fatica di ieri sera a tradurla perché sono stanca pure oggi. Quindi due notizie così, una cantante soul, cantante e autore americano, probabilmente molto conosciuto per il suo singolo di debutto del 1961, You Don't Miss You Water, che ha avuto un grande successo e è finito nelle parti alte delle classifiche nella UK in altri posti. È nato in Tennessee, a Memphis, e è stato coverizzato da tantissimi artisti, tra cui anche Jimi Hendrix, che ha fatto una cover di un suo pezzo, Born Under a Bad Sign. Invece, a proposito di questo film, sul sistema americano, sul sistema sanitario statunitense, che insomma fa una piccola parodia, ecco, non so come chiamarla, sul concetto di se paghi vivi, se non paghi muori. Devo dire che è tutto perfetto, al contrario di quello che secondo me è, di quello che dicono invece il 99% dei critici che ho trovato su internet, partendo proprio da come è stato confezionato il film. A parte i due attori, secondo me bravissimi, Jude Law, poi me lo vorrei sposare, ma poi gli effetti speciali sono fighissimi, tutta questa cosa del recupero degli organi è dettagliatissima, con tutto sangue, anche purtroppo forse le location ottime su questa città abbandonata di Paradise. Ed è stavo leggendo, Fede, che è costato soltanto 32 milioni di dollari ma ben spesi, secondo me, ma molto ben spesi, e ne ha globalmente incassati quasi 18 milioni, quindi un flop totale. Da fallimento. Totale. Sing it up, mister! Hey, what I say, so, yeah. Yeah, no, no, no, no. Yeah. Get your hands in the air, sir! Woo! Yeah. Then you will get no hurt, mister. No, no, no. I said, yeah. I said, yeah. Six was my number, Toots and the Maytals. Non è la prima volta che la proponiamo, accompagnato più di una colonna sonora. Ma questo pezzo è bellissimo, le figure che si possono freggiare dello status di leggende sono così poche nel mondo musicale, e sicuramente Frederick Toots Ibbert, nato a Meppen nel 1942, è una di queste. Vi basti pensare che assieme ai suoi Marshalls, ossia Nathaniel, Jerry, Mathias e Raleigh Gordon, è stato il primo ad aver utilizzato la parola reggae, era il lontano 1968, e il brano è Do the Reggae, prodotto da Leslie Kong. Sono talmente affermati che perfino Bob Marley li citò nella sua Punky Reggae Party assieme ai Clash, ecco, soltanto per dirti. Ma che la cosa più importante non è, no certo, è anche questa, ma insomma, che i Marshalls raggiunsero il picco di popolarità attorno alla fine del 1966, quando Ibbert venne arrestato per uso e possesso di marijuana e fu condannato al carcere per 18 mesi. Fortunatamente gli altri due Marshalls, molto amici di Ibbert, compresero che non era possibile ricreare il loro sound caratteristico senza il loro frontman, così ne aspettarono la scarcerazione. Quando Ibbert fu rilasciato, la band iniziò a collaborare con il leggendario produttore Leslie Kong. Questo era un periodo di transizione per la musica popolare giamaicana, che da rocksteady cominciò a trasformarsi in reggae. E durante il periodo di prigione Ibbert aveva maturato la sua abilità di compositore, quindi il loro primo singolo, quando vennero, insomma, arrivarono sotto la produzione del mitico Kong, fu 5446, That's My Number, tipo riferito al numero di cella di Ibbert, che raccontava della sua esperienza, sì, e sostenendo di essere stato incarcerato ingiustamente perché era rastafariano. Questo brano divenne un grande successo in Giamaica e anche in Inghilterra. Altri famosi brani di questo periodo, insomma, hanno avuto successo, ma questo è uno dei brani più di questo gruppo, più importanti in assoluto. E con questo brano dal 1971 i Marshalls non rappresentarono più la sola band sull'isola, su quest'isola, ma furono anche diventarono anche delle star internazionali. Questa come raccontava Ibbert a proposito della sua vita, di come rievocava gli anni dell'infanzia e i primi passi nella musica. Sono cresciuto girando per chiese, principalmente avventisti del settimo giorno, ma non solo, posti dove la gente si incontra per cantare le lodi del Signore, le canta così bene che vorresti che le funzioni non finissero mai. Mio padre era un predicatore, così mia madre. Poi nella mia vita sono entrati Ray Charles, Mahalia Jackson, Wilson Pickett, James Brown. Li ascoltavo alla radio e la voglia di cantare si faceva sempre più prepotente. A 13 anni me ne sono andato da casa, ho lasciato Maypen per Kingston, Trenchtown, ho cominciato a lavorare da barbiere, tiravo pure di box, ma tutti quelli che mi conoscevano mi dicevano che come cantante ero meglio, e qualcuno, anche gente più vecchia di me, veniva persino in negozio a prendere lezioni e ci aveva visto lungo. If life is a game we play, then just play it. If love can make your day, then just say it. Is a game we play, then just play it. If love can make your day, then just say it. Then just say it. has a knack for playing dead, then betray it. If life is a game we play, then just play it. Then just play it. Dave Stewart con Love Lives, mia cara Ottavia. Sì, Dave Stewart comincia la sua carriera nel 71 con il gruppo Long Dancer, poi si scioglie il gruppo in pochi anni, in seguito fa parte del gruppo rock The Child fino al 1976, anno in cui conosce Annie Lennox, con la quale intreccia una relazione sentimentale, credo che siano stati anche marito e moglie, se non lo sono ancora, non so. Stewart e Lennox vengono prodotti dal musicista Pete Combis e formano il gruppo The Catch, che in seguito diventerà The Tourist e infine Eurythmics, e hanno grandissimo successo fino a che nel 1990 il gruppo si scioglie e i due artisti intraprendono carriere separate. Dal 2011 il nostro Dave Stewart è un componente del supergruppo Super Heavy. My little song. Sing It Back, Moloko. Moloko, duo musicale anglo-irlandese di musica elettronica e pop. Il nome del duo deriva dal mix di latte Moloko in russo e anfetamine, che è consumato da Alex, protagonista di Arancia Meccanica. Questo brano, Sing It Back, di questa fichissima, secondo me, colonna sonora di questo film di fantascienza Repoman che stiamo ascoltando oggi, è un singolo che ha avuto un enorme successo, tratto dall'album I'm Not a Doctor del 1998, che ha venduto 500.000 di copie. Il video è fichissimo, con la cantante bella proprio, Rosie Murphy, bellissima, che balla da sola con questi effetti in cui diventa tutta un po' caleidoscopica. Fichissimo, mi è piaciuto un sacco. Due parole le spendiamo per Marco Beltrami, che ha curato la colonna sonora di questo film, dobbiamo farlo. L'ha arrangiata, aiutato dall'Hollywood Studio Symphony al Neumann Scoring Stage della 20th Century Fox, una bellissima colonna sonora che abbiamo sentito, è molto varia. C'è anche un pezzo di RZA e tanti altri che non abbiamo potuto mettere, ma che insomma abbiamo messo quelli che più ci piacevano. Sì. Lui richiesto prevalentemente per accompagnamenti di genere horror, ha una carriera di tutto riguardo, ha firmato la colonna sonora di tantissimi film, è stato insignito di vari riconoscimenti, tra cui anche un Emmy. È nato il 1966, padre italiano e madre greca, vive in America e è un compositore che fa uso di strumentazioni elettroniche e di sintetizzatori, ha lavorato tanto prima di lavorare al cinema, in teatro e in televisione, e ha collaborato con i Guns N' Roses e con tantissimi altri artisti. È stato nominato all'Oscar più di una volta, per la colonna sonora del film Quel treno per Yuma e un'altra volta per il film The Heart Locker. E poi per dirvi qualche titolo di colonne sonore che ha firmato: Scream, Il Corvo, Resident Evil, Blade Second, Terminator 3, Hellboy, Underworld, Die Hard, Io Robot, Ben-Hur, insomma tantissimi film. La filmografia avrà firmato almeno 100 film, una cosa incredibile. I'm a seasick sailor on a ship of noise. I got my maps all backwards and my instincts poisoned, and a truth blown gutter full of wasted years, like blown out speakers ringing my ears. Now it's nausea, oh nausea, and we're gone. Back nausea, per dirla in italiano, nausea. E ci stiamo avvicinando anche alla chiusura. Sì, vai di back, non voglio dire niente perché è troppo alternativo, è troppo ricco, troppo perfetto, troppo biondo, troppo bello. Mi annoia mortalmente lui e la sua musica, però l'abbiamo voluta mettere lo stesso questo pezzo perché non è male. Anche insomma, comunque le parole sono interessanti. Il pezzo forte della famiglia non è lui né la madre, che è stata una delle pupille di Andy Warhol, ma il nonno, che prima ancora, insomma, quando era un militare di stanza in Germania, fece precipitare un pianoforte dal tetto di un palazzo di 5 piani, anticipando quella che sarebbe diventata una delle performance più famose, Yoko Ono Piano Drop. Lui è stato proprio un pioniere di questo lancio dello performance strumento. E poi diventò amico e collaboratore di Yoko Ono, nonché manager degli Screamers, il mitico gruppo punk degli anni 70 di Los Angeles. Allora, siamo in chiusura. Io vorrei ricordare anche le due serate del fulcro della festa della radio, dell'Onda Rossa Festa per i 40 anni. Due giornate all'ex Snia Viscosa, venerdì, cioè domani 16 giugno, e sabato 17. Che altro dire? Che altro dire? Ci salutiamo, ci diamo appuntamento per giovedì prossimo, sempre sì, dalle 15 alle 16. Ci vediamo alla festa della radio. Esatto, e chiediamo anche suggerimenti per film, autori, musiche, quello che volete. Visto che siamo traschiando il fondo. No, per carità, i film ci sono sempre, però accettiamo volentieri i suggerimenti. Sì, come già avete fatto, è fighissimo, insomma, che sia un lavoro anche collettivo tra Cinema. Sì, ad esempio il prossimo sarà proprio un suggerimento che ci è venuto dalla pagina Facebook Tracce di Cinema, e l'indirizzo di posta elettronica è traccedicinema@ondarossa.info. A giovedì prossimo, tra qualche istante, Attica Blues. Ci lasciamo con Mamas and Papas, Dream a Little Dream of Me. Questa era la colonna sonora di Repo Man. Ciao e buon proseguimento. Lovely bell. Here is Mama Cass. Stars shining bright above you. Night breezes seem to whisper, I love you. Birds singing in the sycamore tree. Dream a little dream of me. Say nighty-night and kiss me. Just hold me tight and tell me you'll miss me. While I'm alone and blue as can be, dream a little dream of me. Find you, sweet dreams that leave all worries behind you. But in your dreams, whatever they be, dream a little dream of me. became a little dream.